Il punto di Stefano Folli. Prepariamoci a un'altra ondata di ipotesi e supposizioni intorno alla riforma elettorale, visto che sembra imminente l'incontro fra Renzi e Berlusconi, destinato, come è ovvio, a riempire le pagine dei giornali e a produrre ben poche notizie. Ma in definitiva, perché è così difficile cambiare il sistema elettorale? La ragione è semplice: occorrerebbe prima un accordo generale sulla riforma delle istituzioni, cioè su un governo messo in grado di decidere e su un Parlamento capace di controllare e legiferare in modo efficace. A quel punto il modello con cui andare a votare verrebbe da sé e sarebbe in armonia con il resto. Viceversa, in Italia si è costretti a cominciare dal fondo, ossia proprio dalla riforma elettorale, mancando l'intesa sulle istituzioni. E naturalmente la frammentazione, la confusione della politica impediscono anche l'accordo sulla riforma del voto. Così ci si trascina fra annunci enfatici e risultati miseri, mentre il Paese osserva con crescente disinteresse ed evidente scetticismo.